Sono le 7 spaccate del mattino. La voce è quella dell'Ariele che vi augura una buona giornata, una splendida giornata, una meravigliosa giornata. È un martedì, un secondo martedì di ottobre, 2/10/2007. Potrebbe essere una puntata qualsiasi di questa trasmissione mattutina, la vostra trasmissione di culto, la vostra trasmissione di riferimento. Si potrebbe essere una giornata qualsiasi, se non che è la puntata numero 100! 100! 100! 100! Così, oggi si festeggia. Vi vogliamo in forma là fuori, eh? È il compleanno, via! Pane, burro e rock and roll. La tua colazione rock. La tua colazione rock. 100 di questi giorni. Pane, burro e rock and roll. Tra l'altro, onore del vero, non mi sono ancora ripreso moltissimo dall'influenza, quindi vediamo come va, ok? Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Tra l'altro, a questo proposito, chiedo anche al mio regista Spadino di tenermi d'occhio, non farmi, cioè se mi gaso un po' troppo, magari mi giri un paio di quelle pilloline che solitamente diamo a Frick. A me magari dai un dosaggio un po' più basso, perché sono un po' più giovane e meno provato di Frick, che tanto in questo momento non mi può sentire perché non mi è ancora arrivato l'Eurostar, e quindi stiamo precisi. No, perché se mi gaso e poi mi sale tutto alla testa è un casino. Va bene, buona giornata. Beh, non sarò l'unico influenzato, ci sarà anche qualcun altro là fuori. Sono in squadra con voi. E dagli studi di Via Locatelli 1, 20124 Milano, che allora iniziamo la puntata del centenario. Come se fossero per me, guarda, te lo dico proprio, è come se fossero 100 anni. Cioè, con questa sveglia alle 5 e mezza del mattino, per me è come se fossero passati 100 anni, non 100 giorni. E si parte con Carlos Santana e la sua Everybody's Everything. O voi in macchina, o voi appena svegliati, o voi che correte, o voi che scendete il cane. Benvenuti. We'll be right back. solito smanettone Carlo Santana, D'altra parte che gli puoi dire? Se si attacca a smanettare, lo lasci andare, no? Inizio caraibico, Santana, Everybody's Everything, 7-6 minuti primi. Un saluto a voi che mi ascoltate in diretta e un saluto invece a coloro che ci ascoltano nelle differite grazie al sito di riferimento di Rock FM, RadioRockFM.com. Intravedevo qui, tentando di capirci qualcosa dalle mail che quotidianamente mi arrivano, addirittura il primo saluto che faccio è ad Adriano che ci ascolta dall'Ungheria. Hai capito che roba? Questo sempre grazie alle puntate in archivio su www.radiorockfm.com. Sì, non sto messo bene neanche oggi, è vero. Mister Trombetta, ho bisogno di te. Esatto, ogni tanto fai così che mi ripiglio. Puntata numero 100, se volete entrare a gamba tesa oppure... sulle punte, entrate un po' come vi pare piace. Io vi ricordo il numero di SMS, ovvero 335 100 77 77. Alberto via mail mi chiede quando arriva la playlist sul sito. E perché dovremmo mettere una playlist sul sito? No? Già mettiamo tutti i programmi in streaming, mettiamo tutto il programma in podcast, pure la playlist. Va bene, Spadino prepara la playlist per le prossime puntate, grazie. Quando hai 5 minuti di tempo, Tireremo dritti fino alle 9, intravedo negli occhi del mio regista qualche cattiva idea, gli verrà sicuramente. Certa, la grande, la buona, la bella musica di Rock FM in questo martedì 2 di ottobre. In teoria è la puntata numero 22 da quando abbiamo ripreso, ma dall'inizio ufficiale di Pane e Burro Rock and Roll è la puntata numero 100, quindi vorremmo tentare di respirare un po' clima di festa il martedì, che fa bene, no? Però il martedì è un po' dura, vedi, il weekend lungo. E invece oggi è festa, via. Ma che ce frega? Ma che ce importa? Eh? Gli Aerosmith, Jimmy's got a gun. C'ha pistolina, stai attento, We'll be right back.

i Deep Purple, che fanno un po' i ganassa, come si dice dalle mie parti, raccontandoci di questa loro ragazza che arriva da Tokyo, Woman from Tokyo, alle 7:20 minuti primi. Il buongiorno dalla voce dell'Ariele, da una Milano sulla quale timidamente si sta alzando una luce, ma sappiatelo, il nostro lampione crepuscolare di riferimento resta ancora acceso, chissà fin quanto ancora ci terrà. Io finché c'è lui, guardate, mi sento proprio tranquillo, protetto, sicuro. È quando si spegne che sento un po' un vuoto. Ma non solo io, tutta la redazione di Pane, Burro, Rock and Roll ha un sussulto. Andiamo a controllare i vostri primi messaggi. Saluto e ringrazio il mitico Gian, che scrive: puntata numero 100, voglio essere il primo. E effettivamente lo sei, quindi onore al merito. Auguri, che bello iniziare così, Ariele. Visto l'età di certi conduttori, tra parentesi Mike Antoni, non è che c'è il libretto per la pensione da veri rocker? Fa. In realtà più che alla pensione per veri rocker, qui da Pane, Burro, Rock and Roll stiamo pensando a un vitalizio per veri rocker. Vi faremo sapere molto presto di cosa si tratta. 100 di questi giorni, viva Pane, Burro, Rock and Roll, e oggi porto il regalo promesso, l'iscrizione alla Terry Fox Run di domenica prossima. Ciao Filippo. In che senso? No, si è spento il lampione. E adesso siamo veramente soli. In che senso, Filippo? Vabbè, io mi fido di voi comunque. Caro Ariele, mi trasmetti 100 pezzi degli AC/DC tanto per festeggiare? Dimmi di sì. Ciao Matteo, tantissimi auguri. Sarebbe un'ottima idea, ma insomma non credo di potermelo permettere così, senza rischiare il licenziamento al volo. Allora, perché non proseguire con la musica? Anzi, che musica! Ah, momento relax, momento tranquillità. La mia base dolce, Pane, Burro, Rock and Roll, ed è subito amore. Yeah. E anche, tra l'altro, essendo martedì, oggi è anche giorno di numeri. Dico bene, Carlo? Carlo, tabaccheria di Milano? Ma si può giocare il 100? Mi sa di no. O sì? In ogni caso, essendo oggi il nostro compleanno virtuale, mi sento il fluido. Oggi sbanchiamo. Secondo me la azzecchiamo oggi, ragazzi. Se state attenti ai numeri che diamo oggi, perché se me lo sento... Ah, anche trombette d'accordo con me. Ma riprendiamo, scusate, era il momento dolcezza, momento tranquillità. Questa sera suonerà con i suoi due vecchi compagni a Torino. Sto parlando del buon Sting. In realtà suonerà a nome Police questa sera. Noi lo ascoltiamo invece a nome Sting con la meravigliosa Russians. Per tutti i russi all'ascolto. Isn't no monopoly of commerce. Russians, il buon pungiglione Sting alle 7:27 minuti primi, mentre Angelica via SMS ci ha tanati, come si dice in termine tecnico, commenta: dite la verità, i Police si riuniscono stasera per un'unica data al solo scopo di festeggiare le 100 puntate di Pane, Burro e Rock and Roll. Effettivamente sì, dobbiamo confessarlo. Auguri e lunga vita all'unico programma che mi fa saltare dalla branda con il sorriso. Grazie mille, cara, e un abbraccio caloroso anche a Mato69, che ci fa gli auguri e si firma gruppo d'ascolto influenzati. Quindi è un piacere vedere, scoprire che effettivamente qua non siamo gli unici a essere messi male, come si dice in termine tecnico. 7:28 minuti primi, brevissima pausa per noi, tra pochissimo riprendiamo. Ciao! Ciao! Oh, che spesa hai fatto! E tu? Sei già qui? Prendo solo una merendina e vado! Questi ragazzi vivrebbero solo di merendine. E che male c'è? Basta scegliere quelle giuste, come questa. Pane, burro e rock and roll. Ha tutta la semplicità di un pane fatto con grano, cereali e la bontà naturale della marmellata di frutta. E poi è anche conveniente. Pane, burro e rock and roll. Nutre bene con la sua semplicità.